la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:36 primi, qui siamo in diretta da Milano. L'indirizzo della trasmissione versione, la versione di Oscar, tutto attaccato, @radio24.it. Mi raccomando, per proposte, per candidarvi anche a esporre problemi, guai, opinioni. Oggi stiamo su un tema che è centrale, a giorni di distanza ancora non è chiaro, rispetto alla tragedia dell'alluvione di Genova, e stiamo parlando delle infinite polemiche su un nodo che si ripropone sempre quando in Italia ci sono esondazioni, frane, vittime, danni infinite per la mancata tenuta idrogeologica del territorio, cioè l'impossibilità di evitare che anche quelle poche opere che sono decise sui punti più nodali per la tenuta del terreno poi finiscano con impugnative, come infatti avviene a Genova. E oggi tenteremo di capire non solo la responsabilità del diritto amministrativo, che cambia, è complicato, e l'intreccio ovviamente delle possibilità di bloccare le procedure di gara, ma tenteremo di farlo anche ponendoci il problema, si parla meno di questo, dal punto di vista di chi poi li firma i progetti, cioè dei professionisti. Che cosa rischiano gli ingegneri? Quanto sono consapevoli gli ingegneri di tutte le magagne accumulate? Altra domanda, quanto ne sono poi a propria volta responsabili? Ecco, tenteremo oggi di parlarne con loro da questo punto di vista, però intanto partiamo dalle parole del sindaco di Genova, Marco Dorio, che 2 settimane prima dell'alluvione così sintetizzava il punto di cui ci occupiamo oggi. I lavori sono stati assegnati a un'impresa, quindi i soldi ci sono, i lavori sono stati assegnati a un'impresa. L'impresa che ha perso la gara ha fatto ricorso e la cosa è bloccata. Quindi è un paradosso, ci sono dei soldi per mettere in sicurezza quel tratto del Bisagno e anche per demolire il bruco. Abbiamo un'autorità che potrebbe procedere, che è il commissario straordinario di governo, il presidente della Liguria, non lo può fare perché c'è un ricorso al TAR, alla giustizia amministrativa dell'impresa che ha perso la gara, che si sta trascinando in una maniera davvero inaccettabile. In questo ha ragione il presidente del Consiglio Renzi quando dice che questi tempi della giustizia amministrativa che blocca delle opere per cui esistono i soldi che servono per la sicurezza e anche per eliminare il bruco, non si possono fare perché si devono attendere mesi e mesi tra ricorsi, controricorsi. Ecco, questo era 2 settimane prima dell'alluvione, sono la testimonianza presa da Primo Canale TV di Genova. Ed era la sintesi di questa vicenda delle impugnative amministrative per la messa in sicurezza, che bloccano la messa in sicurezza del Bisagno, una delle ricorrenti fonti di tragedia a Genova. Fatemi dire, prima di presentarvi l'ospite, che stamattina ho appreso di una cosa che mi ha fatto avvampare di arrabbiatura, perché sui social ho visto che la prefettura di Genova ieri, quindi l'emanazione periferica dello Stato, bontà sua, ha emanato un'ordinanza per la quale la scadenza delle cartelle erariali per tutto quello che è successo viene rimandata, pensate, di 24 ore. Quelle che scadevano ieri bisogna pagarle oggi. A me queste cose mi mandano al manicomio, cioè che uno Stato non riesca a capire che in queste condizioni, ma io non dico che ci deve essere la cancellazione, ma non mi puoi uscire con un'ordinanza che dice la pagate domani 24 ore. Ecco, riflettiamoci su questo Stato così incapace di capire. Detto questo, vi avevo detto, cerchiamo di capire il problema dal punto di vista dei professionisti che poi firmano i progetti contrapposti per cui si va all'impugnativa delle gare. Come la vivono i professionisti nella realtà? Io vi ricordo che negli ultimi 12 mesi abbiamo fatto 31 modifiche in 12 mesi, 31 modifiche su punti fondamentali al codice degli appalti pubblici, e 13 sono venute solo con il decreto sblocca Italia, su cui c'è un mucchio di polemica perché c'è una parte del mondo ambientalista, 5 Stelle eccetera, che dicono che è fatto per ricementificare l'Italia. Però la verità è che noi modifichiamo le norme su come si fanno le gare, gli appalti, su come si interviene sull'edilizia pubblica e privata praticamente ogni mese almeno 2 volte. Allora, per parlarne oggi c'è con noi il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano. Grazie, ciao, Presidente. Grazie a lei. Allora, io le faccio un po' di domande spot. Ma voi quanto siete consapevoli di quello che si crea con questi progetti bloccati? E quanto ve ne rendete conto firmandoli? Il professionista quanto è corresponsabile di questa condizione? Allora, innanzitutto sono due aspetti quelli che lei evidenzia. Innanzitutto un problema generale di normative secondo le quali noi ci troviamo ad operare, che come lei ha evidenziato sono spesso confuse, sono modificate continuamente, e quindi la nostra difficoltà è di seguire giorno per giorno quello che avviene a livello normativo cercando di adeguare le nostre progettazioni. Il secondo aspetto è quello delle responsabilità, che noi sentiamo in maniera molto forte, perché a differenza di tante altre categorie anche dello Stato, noi come professionisti subiamo immediatamente le conseguenze dei nostri errori, quindi per questo ci aggiorniamo continuamente. Però è anche vero che i professionisti sono sempre meno chiamati a lavorare per quanto riguarda la realizzazione di opere pubbliche per un meccanismo un po' perverso che viene fuori dalla legge Merloni del 94, che ha consentito alle pubbliche amministrazioni di fare progettazione all'interno con le proprie strutture con questo famoso incentivo del 2%. Ora immagini, dottor Giannino, che negli altri paesi di Europa la progettazione, la direzione, insomma il controllo sulle opere costa il 16% in Francia, il 32% in Inghilterra, e da noi si vorrebbe fare col 2%. Col 2%. Secondo lei è un risparmio, no, o c'è una clamorosa ipocrisia in questo meccanismo? Sì. Ecco, noi non vogliamo che la pubblica amministrazione non abbia un incentivo, per carità, sono colleghi, però sarebbe appena sufficiente quel 2% a fare i controlli e la programmazione che la pubblica amministrazione ha il dovere di fare, e non pensare anche di essere in grado con lo stesso incentivo di fare progettazioni su temi che sono particolarmente delicati e dove paradossalmente quando si invitano i professionisti a partecipare ci chiedono una montagna di requisiti, di documentazione, di curricula, di fatturati e così via, che praticamente soltanto il 2% dei professionisti riesce a rispettare, e quindi c'è una clamorosa ipocrisia in questo meccanismo. Poi dovremmo pensare a quello che succede per le gare di progettazione, anche lì. Io le faccio un'osservazione, sì, cioè le impugnative che hanno bloccato l'intervento di messa in sicurezza sul bisogno a Genova dipendono dal fatto, come hanno chiarito i colleghi che se ne sono occupati in questi giorni, che hanno tentato di spiegare alla pubblica opinione come diavolo sia possibile, per una volta che ci sono i soldi, per anni non si interviene per l'impugnativa, perché da parte del commissario straordinario ad acta che c'è in quell'opera, perché quell'opera fa parte della legge obiettivo, tutte le opere della legge obiettiva hanno bisogno di un commissario straordinario, di un commissario ad acta. Il commissario ad acta per l'aggiudicazione di questa gara fece un bando, un capitolato nel quale da una parte si impegnavano le imprese che partecipavano a tenere il progetto esecutivo già approvato e noto, e dall'altra, nello stesso bando, si consentiva alle imprese di variarlo, che anche un bambino che non è esperto capisce o l'una o l'altra, ed è questo il motivo per cui i ricorrenti dicono noi ci siamo attenuti a un pezzo del bando, e gli altri hanno bloccato perché dicono no, lì c'è scritto che il progetto si può modificare. Ma in questo caso il professionista che lavora per l'impresa, diciamo così, che tenta di aggiudicarsi un bando, non ha il dovere di dire ma questa gara non può stare in piedi ed è inutile partecipare perché tanto finiamo naturalmente a un'impugnativa? Cioè, voi lo capite meglio di tutti, visto che sono gli ingegneri. Certo, ma qui il sistema che molte volte non funziona, come quello delle offerte migliorative, che se ho ben capito è il meccanismo che si è scelto per questa gara, dove si è preso un progetto che, sul quale non discuto, sarà stato un progetto perfetto, ma se è così non si capisce perché poi si dovrebbe mettere a gara con delle proposte migliorative che di per sé prevedono una discrezionalità della pubblica amministrazione, il che nel nostro paese diventa automaticamente un incentivo a fare ricorso, perché dove c'è discrezionalità immediatamente ci sono delle decisioni che possono essere contestate un po' a tutti i livelli, e figuratevi se un'impresa che arriva seconda non contesta un'ipotesi. Comunque io spero che se ci sono ingegneri, architetti in ascolto, cioè tutte le professionalità che ruotano intorno alla messa in sicurezza, alla realizzazione di opere, alla messa in sicurezza del territorio, ci chiamino anche per dirci la loro esperienza, perché noi parliamo sempre dei politici e dei responsabili delle opere, però non ci poniamo anche il problema di chi poi professionalmente è toccato dalla realizzazione o è toccato dal non poter partecipare alla realizzazione di tutto questo, perché lei ci dice poi che solo per i requisiti è una percentuale molto bassa degli ingegneri che possono davvero... Assolutamente, ma le dico di più che da analisi del nostro centro studi la stragrande parte delle gare di affidamento di servizi di ingegneria e architettura sono irregolari ed è un problema. Ma sono irregolari in che senso? Irregolari nel senso che le caratteristiche che si prevedono per nell'ambito del bando sono abbastanza irrazionali, non sono sempre rispettose della legge, spesso presuppongono delle forme di affidamento non propriamente limpide, insomma, questo a voler essere male, gentili per così dire. Sì, spesso ci si azzecca. Eccoci tornati in diretta, 16:48, primi 30 secondi, stiamo parlando delle opere bloccate, c'erano i soldi a Genova, almeno per intervenire in alcune delle aree che più tragicamente poi quando ci sono le bombe d'acqua e temporali portano alle alluvioni che si ripropongono negli anni, però tra le impugnative amministrative per l'aggiudicazione della gara e la pubblica amministrazione, Genova, la città che a quel punto sta a guardare, abbiamo sentito il sindaco, perché dall'altra parte il sindaco dice come faccio a forzare se il TAR interviene, il TAR della Liguria, il Consiglio di Stato e il TAR del Lazio. E stiamo parlando dal punto di vista dei professionisti che lavorano in questo disastrato settore con una normativa che muta di mese in mese e ci dice il presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri con il più delle gare che così i tuocoli di primo acchito leggendo i bandi è in realtà irregolare per i meccanismi di affidamento, per il meccanismo del più forte ribasso che spesso fa sospettare, come ovvio, perché significa che se lo aggiudicano imprese che non sono in condizione di mercato e poi si rifanno su chi lavora per loro, insomma tutto quello che è ben noto. Nel frattempo, ripeto, lo scandalo è che a Genova la prefettura dà solo 24 ore di slittamento per pagare le cartelle erariali e do una breve risposta a tutti coloro che mi dicono ma come oggi non parlate della manovra? Guardate, secondo me l'esperienza di questi mesi insegna che si parla delle manovre dopo che vengono approvate, non prima. Certo, oggi il presidente di Confindustria ha detto che si realizzerebbe il suo sogno personale, quello di tutta Confindustria, perché se davvero il governo alla conferma dei bonus 80 euro con 10 miliardi aggiunge altri 6 miliardi e mezzo di meno IRAP per, abbattendo l'intera componente dipendenti dell'IRAP, è il compimento di un sogno e per di più con l'abbattimento per 3 anni, 0 contributi per tutti i nuovi assunti. Questo è quello che Renzi ieri ha promesso a Bergamo. Vediamo il Consiglio dei Ministri, vediamo come tutto questo si copre, vediamo se ci sono nuove tasse per equilibrare queste. Io ne parlo quando ho capito. Comunque, certo, gli impegni sono molto importanti, ecco, a sorpresa del Presidente del Consiglio. Sentiamo qualche telefonata di qualcuno di voi sul tema di cui parliamo oggi e poi lo facciamo commentare al Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Cominciamo con Andrea da Firenze. Prego Andrea. Pronto? Sì, salve. Salve. Io sono un ingegnere ambientale, mi occupo proprio di interventi di difesa idrogeologica. Sì. Io devo dire che dopo 15 anni di professione ancora rimango stupefatto. Opere anche semplicissime ma estremamente importanti, partecipiamo alle cosiddette conferenze dei servizi. Una ammucchiata di 57-60 uffici, tutti orizzontali, in cui non c'è un parere importante o meno importante, tutto diventa importante. Cioè tutto pesa uguale nel procedimento. Tutto pesa uguale, sì. Quindi se lei deve rifare un argine che i nostri nonni, i nostri contadini rifacevano banalmente, è un'impresa. È un'impresa perché il parere dei 50 vale ciascuno vale uno. Vale. E quindi anni. Non, è una schizofrenia totale. Non riusciamo ad andare avanti. Se non ci rimettiamo noi un pochino con la testa, siamo all'obbrobrio. Senta, qui arrivano messaggi che dicono ma non è che anche i professionisti, dal fatto che poi sono in tanti a partecipare, eccetera, eccetera, ci guadagnano da un meccanismo che ha tempi lunghi per decidere? Giannino, ascolti, il mercato delle professioni dal 2008 a oggi è completamente cambiato. Questo lo so. Ora si lavora con dei ribassi clamorosi, quindi si cerca di lavorare bene. Quindi il professionista guadagna solo se fa un lavoro fatto bene e velocemente. quando noi ci incartiamo, e quindi quasi sempre con le conferenze dei servizi o con le cose, il professionista ci perde e ci perde la collettività. Va bene, io spero che qualcuno però tra politica e pubblica amministrazione capisca che bisogna mettere mano a procedure un po' rapide, perché in realtà il più delle modifiche dal mondo politico, che pure per esempio quando ha istituito l'autorità anticorruzione con Cantone ha detto basta con le deroghe, delle deroghe al codice, al codice generale degli appalti, in realtà poi gli interventi per esempio dello sblocca Italia, ma come per Expo, sono tutti di nuovo in deroga, quindi bisogna che la politica si metta d'accordo con se stessa. Ecco, questo è quello che io non riesco a capire. Sentiamo Luigi da Genova, prego Luigi. Grazie, buonasera a tutti. Sì. Una sola precisazione, tutti parlano del ricorso al TAR che riguarda il terzo lotto della copertura sì, del bisogno. Quell'operazione lì non serviva per la messa in servizio in sicurezza del bisogno, era solo un'opera che serviva strutturale perché stava crollando la copertura. Sì. Nel farla, nell'adeguarla, ovviamente i tecnici hanno studiato travi di forma diversa, spostato i sottoservizi per aumentare la portata del fiume avvicinandosi molto lontanamente alla portata millenaria. Il problema del bisogno è che c'è il ponte della ferrovia a monte, immediatamente a monte, stazione Brignole, che ha una portata di 400 metri cubi al secondo, che è un terzo di quello della che portata serve di bacino. Quindi quella copertura lì, bloccata, sì, è vero, dal altro ricorso, come avete detto. Però lei dice non sarebbe stata decisiva, perché no, il problema è a monte il ponte ferroviario. Assolutamente, ma quando anche l'hanno appaltata era un problema, sì. Tant'è vero che su quella copertura i mezzi pesanti devono passare a lato, no? Era una strada a sei corsie, è la strada che tutti conoscete per arrivare alla Fiera del Mare, probabilmente. Ok, i mezzi pesanti devono passare ai margini, proprio perché lì la soletta era più robusta. Grazie, anche riadeguarla. Grazie Luigi per farci capire che comunque sia, ecco, va bene il problema con la gara al TAR, questo intervento sul terzo lotto del bisogno, ma il problema c'è comunque e quindi bisogna pensare a una soluzione diversa su quel ponte che non dà una possibilità di defluire le acque quando avvengono questi eventi, come sarebbe invece necessario. Pasquale da Firenze, che dice Pasquale? Salve, senta, io sulle gare d'appalto ho qualche perplessità, nel senso che oggi la Salerno-Reggio Calabria è un esempio lampante di come una struttura possa essere stata costruita sempre a ribasso, ma poi è costata più di ogni altra opera. Come mai? È semplice, le gare si fanno a ribasso, e poi chiaramente si inserisce la variante, esattamente. E sulla variante si scaricano tutti i costi. È quello che dice lei. Posso fare una domanda approfittando di questo al presidente Zambrano? Su questo i professionisti non potevano fare di più nei decenni? Ma come no, è una battaglia di principio che stiamo portando avanti da tempo, però purtroppo si era partiti con la riforma del 94 con la Merloni, che voleva rimettere al centro del processo di esecuzione di un'opera pubblica la progettazione, che è l'aspetto più importante, la progettazione esecutiva, che è quella che garantisce un'opera di qualità a tempi certi, però tutto questo la pubblica amministrazione non riesce a garantire perché ritiene che la progettazione costi troppo, che debba essere fatta in tempi brevi, che ci vogliono procedure di affidamento che non sono regolari, non c'è programmazione, non ci sono incentivi. Allora, Presidente, io la richiamerò perché il tempo come sempre è tiranno e sta finendo. Devo dire che la maggior parte degli sms che arrivano esprimono una sfiducia totale per tutta la possibilità di migliorarle queste cose. Speriamo bene, continuate su Radio 24, appuntamento con me a domani.